topic of our Dhamma talk this certain evening is mindfulness in daily life. L'argomento che trattiamo questa sera è consapevolezza nella vita quotidiana. And so the reason for choosing this topic as a Dhamma talk is that tomorrow a number of you will return to your homes. And a new group of meditators, a smaller group, will come and join us. And some, fortunately, are going to stay. La ragione di questo argomento è poiché domani alcuni meditanti lasceranno il ritiro, mentre altri meditanti entreranno nel ritiro, mentre alcuni continueranno il ritiro. And certainly we shall also talk briefly about metta practice. E parleremo brevemente della pratica di metta o di gentilezza amorevole. And then, time permitting, also on Buddhist peace building. Peace building. Ci prenderemo un po' di tempo per parlare un po' di come si costruisce la pratica buddista. La costruzione della pace. Since we want to take the mindfulness practice back into our daily life, we also want to integrate it as much as possible, and sometimes conflicts arise, and conflicts may arise within ourselves, conflicts may arise within our small family, and conflicts may arise within our community, etc., etc. And so it's good to have at least a few ideas of how to approach this. Noi veniamo qui e pratichiamo e cerchiamo di praticare la meditazione, di costruire un atteggiamento corretto rispetto alla nostra vita, ma quando poi torniamo a casa con le nostre famiglie o con la nostra vita quotidiana, possono sorgere dei conflitti o delle problematiche, e allora dobbiamo cercare di capire in quale modo confrontarci con queste difficoltà. Now, the transition from intensive practice to life at home is certainly not always easy, and certainly therefore try to be gentle with yourself. Tradurre la propria pratica nella vita quotidiana a casa non sempre è semplice, e così la prima cosa è avere un atteggiamento condiscendente e gentile prima di tutto verso se stessi. And so you might consider scheduling every day some silent time. E potremmo decidere di programmarci durante la giornata alcuni momenti di silenzio. It would be not quite certainly useful to, after an intensive retreat like this, to head right away for the next discotheque or pub. E ovviamente non è la cosa migliore, potrebbe non essere la cosa migliore, usciti da un ritiro di questo genere, dirigerti immediatamente verso un pub o una discoteca. Now, during 7 days of intensive practice or 2 weeks of intensive practice, you have worked very hard to purify the mind, purify your verbal conduct and your bodily conduct, and it would be a great pity if you give up all of this going to a discotheque or a pub. Perché praticare per una settimana o anche per 2 settimane in un ritiro intensivo di questo genere, come quello che stiamo portando avanti, crea una situazione di purificazione sia a livello mentale che della condotta comportamentale, e sarebbe davvero un peccato disperdere ciò che abbiamo acquisito con questo duro lavoro andare in una discoteca o in un pub. Now, in the long run, please know that your meditation practice should not end with the end of the retreat. However, try to see mindfulness practice as an activity that you want to continue until the end of your life. Nel corso del tempo dovremmo cercare di rendere la meditazione non semplicemente un'attività che svolgiamo all'interno di un ritiro, ma dovremmo cercare di pensare, di decidere, di portarla avanti e comportarci e costruire la consapevolezza anche nella vita quotidiana per fare della meditazione una pratica che duri tutta la vita, fino al termine della vita. And so this then means that it might be a good idea to schedule periods of an intensive retreat, and then followed by some life at home with some daily practice, and then again another period of an intensive retreat, and so on and so forth. And so if you follow this strategy over a longer period of time, you are bound to gain the Dhamma sooner or later. Quindi il suggerimento potrebbe essere quello di immaginare programmare dei ritiri intensivi durante l'anno, e quando invece si torna a casa portare avanti una pratica di meditazione meditativa regolare, facendo in questo modo, organizzando e pianificando la pratica in questo modo, io posso assicurare che prima o poi il Dhamma verrà acquisito. No, sometimes certain meditators ask, well, could you give some instructions for the mindfulness practice at home? E molto spesso i meditanti mi chiedono se di dare degli insegnamenti su come portare avanti la consapevolezza a casa, nella vita quotidiana. And so the basic maxim for intensive practice as well as practice at home is simply label, observe and know whatever predominant object arises in the body and or in the mind, starting with the rising falling movement of the abdomen. L'insegnamento di base, il consiglio di base che vale sia per la pratica intensiva del ritiro, ma anche nella vita quotidiana, è quella di etichettare, osservare e comprendere o conoscere qualsiasi oggetto, quale che sia l'oggetto predominante che si presenta momento dopo momento. The last part, after observing everything and knowing. Bodily objects that occur in the body or the mind, and starting with the rise and fall. Naturalmente, si può trattarsi di un oggetto mentale, di un oggetto nel corpo, iniziando soprattutto dal sorgere e salire dell'addome. Now, when we do an intensive retreat, usually our the development in our meditation practice tends to be quite steep and quick. Quello, lo sviluppo che noi abbiamo durante un ritiro di meditazione intensiva tende a essere rapido e profondo. Quick and deep. Yes, exactly. Whereas the progress during our daily practice will obviously be not that steep and also not that quick, but there will still be some development taking place. Ovviamente durante la vita quotidiana a casa, portando avanti la nostra pratica, essa non potrà avere la stessa rapidità e la stessa profondità che riusciamo ad ottenere all'interno di un ritiro. Ciò nonostante, comunque, la pratica avrà un suo sviluppo. And certainly the progress during our daily practice will also very much depend on how many hours we're putting in. If it's just half an hour, then there will not be that much development. But if it's something like 3 hours or even more than this, 3 or 4 hours a day, then the practice will move ahead. Naturalmente questo, lo sviluppo che si potremo avere a casa dipenderà anche dal tempo che riusciremo a dedicare alla pratica. Ovviamente se riusciamo a dedicare solo mezz'ora di pratica non ci potranno essere grandi risultati, ma se riusciamo a dedicare un numero appropriato di ore, 3, 4 o anche più, ecco che allora la pratica comunque avrà un suo progresso. And so with our daily practice we have to be patient, and also persistent at keeping it up no matter what. Nella nostra vita quotidiana c'è bisogno di pazienza e anche di perseveranza e di costanza nel portarla avanti quali che siano le condizioni nelle quali ci troviamo. And so, to give you a nice example about progress or success in daily practice, well, a number of years ago, about 10 years ago, in England, I met a couple by the name of Dr. Dimont in England. A Burmese couple, Dr. Din Min Aung and his wife Dong Molly, both of them were at the time, probably still are, physicians. Both of them were very busy people, and they didn't have much time to go on a retreat, and they focused very much on their daily practice. Posso portare un esempio a questo riguardo. Alcuni anni fa, 10 anni fa, ho incontrato una coppia di in Inghilterra, ho incontrato una coppia di persone di nazionalità birmana. E queste erano una coppia, erano ambedue medici ed erano persone molto indaffarate e quindi non avevano molto tempo da dedicare alla pratica. E quindi avevano focalizzato la loro pratica sulle attività quotidiane. And over the course of several years, both of them managed to develop their practice to a rather high level. E nel corso degli anni ambedue sono riusciti a portare la loro pratica a un livello abbastanza elevato, piuttosto elevato. If you only have limited time, and your time is really precious for meditation, then try to be as focused as possible. Naturalmente meno tempo abbiamo e quindi se abbiamo poco tempo dobbiamo cercare di rendere prezioso quel tempo che dedichiamo alla meditazione, e in quel poco tempo dobbiamo cercare di essere di avere il massimo della focalizzazione. Now, during an intensive retreat, our faith will have strengthened, and this faith we need to support, we need to nourish in different ways, and one way is through practice, through daily practice. Durante un ritiro la nostra fede, la nostra confidenza nella pratica cresce e quindi una volta tornati nella vita quotidiana abbiamo bisogno di continuare a nutrirla proprio attraverso la pratica. Other ways to nourish our faith are maybe download some Dhamma talks from the internet. This is so common now. And then to listen to those talks. Un altro buon modo per nutrire la nostra fede è quella di utilizzare una tecnica che ultimamente è diventata molto semplice, molto comune, che è quella di riuscire a scaricare da internet dei discorsi di Dhamma per fare in modo di avere degli insegnamenti costanti. And so also what is, or what helps a lot is being part of a sitting group. So once a week or once every 2 weeks, getting together with a group of fellow meditators and then to sit together and maybe have a Dhamma discussion together. Un altro buon modo è riuscire a trovare trovarsi con un gruppo di altre persone che sono interessate alla meditazione per avere delle serate, magari delle serate settimanali comuni per meditare insieme e eventualmente avere anche uno scambio di idee, una discussione sul Dhamma. No. During an intensive retreat, we have purified our sila to quite some extent, and when we go back into our daily life, we want to maintain this by at least keeping the five precepts. Durante un ritiro, noi abbiamo purificato e abbiamo costruito la nostra sila, la nostra moralità, e quindi una volta ritornati a casa, cerchiamo di mantenerla, e un buon modo per farlo è quello di continuare ad osservare perlomeno i cinque precetti. And so, keeping or living according to the five precepts, you will see, will in the long run help you to straighten your life, to simplify your life. Nel corso del tempo ci si potrà rendere conto che il mantenere i cinque precetti semplificherà la vostra vita. Now, sometimes certain meditators say, okay, I have about 2 hours a day that I could give for meditation practice. How should I break up the time? And how should I use it for meditation? And so the answer to this could be, it's just a suggestion, to maybe do 1 hour of metta practice and 1 hour of vipassana practice. Alcuni praticanti domandano se ad esempio ho 2 ore da dedicare alla pratica durante la giornata, come dovrei suddividere o organizzare queste 2 ore? Il mio suggerimento, ma naturalmente solo un suggerimento, è quello di suddividerli tra 1 ora di pratica di metta, di gentilezza amorevole, e 1 ora di pratica di vipassana. And so if you still have some time to spare, then you could also consider doing maybe some formal walking meditation. E se avanza un pochino di tempo, potremmo dedicarlo a fare la meditazione camminata in modo formale, come si fa all'interno di un ritiro. Now, what some meditators have found to be quite useful is to do an occasional weekend retreat to boost their practice. E un'altra cosa che molti meditanti hanno trovato utile è quella di fare occasionalmente dei ritiri nel fine settimana per dare, diciamo così, una spinta alla loro pratica. One Burmese lady used to work for a bank in Australia, and certainly what she would do was on Friday late afternoon after work she would go and do the shopping, and then she would go back, prepare food for or cook the food for the weekend, and then disconnect the telephone and switch off the mobile phone, and then she would practice. Una praticante birmana che vive in Australia, lavora in banca, ha questa abitudine. Al venerdì pomeriggio, finito il lavoro, va a fare la spesa, torna a casa, cucina, prepara tutto in modo da non dover fare più nulla, poi stacca il telefono, la televisione, il cellulare e si dedica alla pratica per il resto del fine settimana. Now, when we're not careful, our daily meditation practice may turn into just a waste of time. Ma se non prestiamo attenzione alla nostra pratica a casa, potrebbe anche risultare una perdita di tempo. And so, this may happen if there's no quality to our sittings. E questo potrebbe accadere se non diamo qualità alle nostre sedute. So we sit down, at first the mind is a little bit fresh, and then within 5 minutes we start nodding. Per esempio può accaderci di sederci per 5 minuti, la mente rimane fresca, ma poi cominciamo ad addormentarci. And so, if it's like this, then we might as well sleep some more. Se questo fosse il caso, allora vorrebbe dire che ci sarebbe semplicemente bisogno di dormire un po' di più. So, one way of intensifying our daily sitting is after the sitting to write down one's meditation experiences. So, as many of you are doing here during the retreat, you have a report, a log, and so after the sitting you write down your experiences. This will force you to observe properly during the sitting, and so then the quality will go up. Un buon modo per mantenere una pratica focalizzata e viva potrebbe essere quella di avere l'abitudine di prendere nota dopo ogni seduta che facciamo a casa, proprio come molte persone fanno qui durante il ritiro. Questo ci costringerà in qualche modo a mantenere viva l'attenzione per poter poi riportare nel diario che teniamo. And so when you keep writing down your experiences, then after a while you might recognize a certain pattern in terms of the development of your practice. E se continuiamo a fare questo, ci accorgeremo, rileggendo ciò che abbiamo scritto, che potremmo riconoscere degli schemi, dei percorsi, diciamo, che si ripetono rispetto alla pratica. No, sometimes certain meditators say, well, if I have to face some difficulty in my daily practice, what should I do? And certainly the very simple advice for this is just keep going with your practice, wait for a day or two or maybe even three, and usually in the meantime the answer will come up from your own practice. I mean difficulties in daily life in the sitting. Alcune persone, nel caso si dovessero incontrare delle difficoltà nella propria pratica a casa, semplicemente il mio suggerimento è semplicemente di continuare, di perseverare, e osservare e lasciare che la risposta emerga da sola. Di solito in 2 o 3 giorni questo avviene. Now, our daily practice should not certainly be limited to only formal sitting and an occasional walking meditation, but we should also try to integrate it into our daily activities. Which means we could perform some simple activities like taking off the shoes, or opening and closing a door, or taking a meal, or talking to another person, etc. We could turn these activities into exercises in mindfulness. E poi dovremmo non cercare di inserire nella nostra pratica anche delle piccole esercizi di consapevolezza nella vita quotidiana, quindi non solo la seduta, ma prendersi delle piccole attività come mettersi le scarpe, aprire una porta, prendere il pranzo. Potremmo utilizzare, queste piccole attività possono proprio essere utilizzate come degli esercizi di consapevolezza. However, you know, if you start walking around near your office, and so the pace you're walking around here during intensive retreat, your fellow office workers might not understand, and you might even get fired from your job. So you need to adjust to the circumstances. Naturalmente dobbiamo cercare i giusti compromessi, perché se cominciamo a girare per il nostro ufficio o luogo di lavoro con la stessa velocità e con le stesse modalità con cui lo facciamo qui, ecco che i nostri colleghi di lavoro e soprattutto i responsabili potrebbero non comprendere la cosa e ci potremmo ritrovare licenziati. Quindi troviamo i modi, i tempi e i luoghi per fare questi piccoli esercizi. During daily life we cannot be as mindful as we are during intensive practice, and there's some average amount of mindfulness is quite enough. Naturalmente nella nostra vita quotidiana non potremo avere lo stesso livello di consapevolezza che abbiamo in un ritiro intensivo, e quindi dovremmo cercare di avere una consapevolezza media, e questa potrebbe già essere sufficiente. And so if we know what we're doing, if we're mindful of what we're doing and we know what we're doing, we're also mindful of what we're saying and we know what we're saying, and we're mindful of our predominant thoughts and mental states, then that's quite okay for daily practice. Quindi nella pratica, nella vita quotidiana, potrebbe già essere un buon risultato ed essere sufficiente essere consapevoli e sapere che cosa stiamo facendo, essere consapevoli e sapere che cosa stiamo dicendo e pensando, e anche consapevoli e sapere quali sono i nostri stati mentali. No. Another frequently asked question is, well, I've worked so hard during the intensive retreat and gained such and such insight, intuitive insight, and then when I go back home, will I lose this or not? Un'altra domanda che viene spesso rivolta è: bene, io sono venuto al ritiro, mi sono sforzato, praticato con intensità e ho ottenuto delle conoscenze di insight, ma andando a casa perderò queste conoscenze. So whether you are going to lose your latest level of insight knowledge or not will very much depend on how much time you give for the daily practice. Allora, quello che posso dire è che il quanto dei vostri degli insight che raggiunti durante la pratica intensiva verrà mantenuta dipenderà molto dal livello di pratica che riuscirete a mantenere anche a casa. So if you do only half an hour a day, then the most likely your practice will drop off. Chiaramente mezz'ora di pratica quotidiana potrebbe significare che la gran parte della vostra, di ciò che avete acquisito potrebbe essere perduto. However, if you manage to practice for maybe 3 to 4 hours, then it's quite likely that you'll be able to maintain your practice at a pretty high level and then develop it from there. Ma se riuscendo invece a dedicare un 3-4 ore alla pratica, ecco che con questo tempo dedicato i livelli raggiunti potranno essere mantenuti e si potranno anche avere dei progressi. Now, for those of you who've done a longer retreat and then go back home, there's one word of caution, namely, let's say you've developed your practice to a relatively high level, and then you go back home, you don't have that much time for formal practice, and your practice, your level of wisdom drops off. And then it may happen that you find yourself for a while facing difficult mental states over and over again, such as maybe depression or such as being pretty fed up with formations. If so if it happens like this, do consider or do remember that this could be absolutely practice related. Così per coloro che hanno fatto un lungo ritiro, che hanno fatto lunghi ritiri, potrebbe accadere che una volta a casa si trovino a fronteggiare delle situazioni di difficoltà, come un livello che potremmo chiamare di depressione, oppure di fed up with formation, di averne abbastanza. Oppure una sorta di disgusto rispetto agli oggetti e alle formazioni. Così, se questo dovesse essere il caso e accadere, ecco, consideratelo, mi raccomando, parte della pratica. Questo è parte della pratica. To give you an example for this. L'unica cosa da dire, se non mantengono, se non praticano tutti i giorni, se non lasciano vedere la pratica, succede. Ah sì, I forgot to say that this could happen if they don't maintain the practice at home. Sì, grazie. Avevo dimenticato di dire questo può accadere naturalmente se non c'è questa possibilità di mantenere la pratica a casa. And so even then it may still happen. Anche comunque mantenendo la pratica potrebbe anche accadere lo stesso. No. So to give you a nice example for this, namely, a couple of years until a couple of years back, meditators from our center in Lumbini had to go all the way to Kathmandu for their visa extension. It takes at least 6 to 8 hours by bus to get there. Per darvi un esempio, fino a poco tempo fa i meditanti che venivano nel nostro centro in Lumbini ogni tanto dovevano recarsi a Kathmandu per rinnovare il loro visto di soggiorno, e per fare questo dovevano fare un viaggio di 6 o 8 ore di autobus. And then at least one day, mostly one day in Kathmandu, and then another 6 to 8 hours drive back to London. Poi naturalmente dovevano passare almeno una giornata in Kathmandu e il giorno dopo ritornare di nuovo ripercorrendo con l'autobus un tragitto di 6-8 ore. No, what meditators reported was that if prior to the visa trip to Kathmandu, their practice was in a place where the mind was somewhat, full of misery. Mm-hmm. Then the trip to Kathmandu, the stay in Kathmandu, would also be quite miserable. Quello che i praticanti hanno riportato è che se prima di fare questo viaggio per andare a Kathmandu, durante la loro pratica, la loro mente era immersa nella miseria, diciamo, ecco che il viaggio e la permanenza, il ritorno per andare e tornare da Kathmandu erano risultati colmi di quella miseria. Miseria, una sensazione di sentirsi miserabili o infelici. Right. And so the same meditator who would then continue to practice in Lumbini, and his or her practice would improve further, and the person would reach, let's say, a level of strong equanimity, and then would have to go to Kathmandu again for a second visa extension. In this case, the experience would be totally different, and the meditator would certainly drive to Kathmandu, be there, come back with plenty of equanimity. Se per esempio quando questi stessi meditanti, continuando a meditare nella loro pratica, raggiungevano lo stadio in cui la mente è piena di equanimità, ecco che a quel punto il loro viaggio di andata e ritorno e la loro permanenza a Kathmandu era comunque totalmente equanime, quindi non avevano, riportavano di non aver avuto nessun problema. And so just just keep in mind the level of your practice, that or the level that your practice is at, may have quite some impact on how you generally feel in daily life. E così tenete presente che il livello in cui che la vostra mente raggiunge all'interno del ritiro avrà un impatto con quello che troverete nel modo in cui vi relazionerete alle vostre cose nella vita quotidiana. Now, after a week of intensive practice or 2 weeks of intensive practice, your own bodily and verbal behavior has become much more cultivated, and then when you go back to the world, you want to relate to others in the same way, so in a cultivated, gentle way. Ovviamente durante una settimana o 2 settimane di ritiro intensivo i nostri comportamenti e i nostri modi di fare sono stati coltivati, e quindi ritornando a casa abbiamo il desiderio di continuare a comportarci nello stesso modo. And then comes the shock when others treat you just as before the retreat, namely in a rough manner. Però che arriva lo shock quando una volta ritornati a casa le persone ci trattano proprio come ci trattavano prima del ritiro, e quindi in modi un po' rudi o sgarbati. And so, just be prepared for this. Così cerchiamo di essere preparati per questo. And so, don't think that others who have never meditated before will understand how refined your mind has become. Quindi noi anche cerchiamo di non aspettarci che persone che non hanno mai meditato prima e non sanno che cosa abbiamo fatto ci trattino come noi ci aspettiamo. No, if we've had a wonderful retreat with plenty of very encouraging experiences, and we then go back home, then most likely we will want to talk about our experiences, we will want to encourage others also to start meditating. E di solito quando durante un ritiro abbiamo delle esperienze di pace, piacevoli, e che comunque ci hanno riempito di gioia, ecco che tornando a casa desidereremo raccontare queste esperienze e anche cercare di coinvolgere altre persone nella pratica. And so, try not to proselytize too much. Così cerchiamo di non fare troppo proselitismo. And so, some years back, was a meditator. I think it was during a retreat in Belgium. And there was a meditator from Switzerland, an elderly man, maybe 55 years old. And he was the only from his family, who was meditating. Qualche anno fa, penso che fosse in un ritiro in Belgio, c'era un praticante, un uomo di mezza età, 55 anni, proveniente dalla Svizzera, che era l'unica persona che meditava della sua famiglia. And so he then related after one occasion after a retreat he went back home, and he was still so inspired by the meditation practice that he moved around near the house just like you all do, at snail pace. And this had an unexpected reaction, namely his family got really angry and really upset with his walking around so slowly, because he didn't like it at all. Così questa persona mi ha raccontato che una volta tornata a casa era così pieno delle esperienze avute durante il ritiro che ha continuato anche a casa ad avere gli stessi comportamenti, quindi comportarsi in modi gentili, muoversi lentamente, insomma comportarsi come si comportava durante il ritiro, solo che ha provocato l'ira della famiglia, perché le persone della famiglia non hanno compreso questa cosa. And so, you know, so be prepared to, you know, then people, you know, may say, you know, why are you sitting in your room all the time? You're just wasting, you know, time, or, you know, you're being lazy. There's so much. And, you know, one expression once I heard was, you know, in Germany, you're not certainly productive, you're not contributing to the, you know, the gross domestic product. È così. Potrebbe accadere che qualcuno vi dice: ti chiudi in camera tua e ti siedi lì e non fai niente, sei improduttivo. In Germania mi ricordo che una volta mi è stato detto, a qualcuno, non ho ben capito, che comportandosi in questo modo non si contribuiva alla crescita del prodotto interno lordo. Has it been said to you or to another person? No. Well, wait a minute. I forgot the details. But somewhere I heard it like this. Heard already. Now, when it comes to the benefits of our mindfulness practice during daily life. Così, veniamo invece ai benefici che possiamo avere dalla pratica della consapevolezza nella vita quotidiana. So, what kind of benefits have you discovered so far? Così, fino adesso che tipo di benefici avete raggiunto, avete trovato fino a questo punto? Benefits of mindfulness. I benefici della consapevolezza. Pace, soprattutto pace. Pace, soprattutto pace, so peace. Pace, peace. Peace, okay, good. And what else? Is that all? Some detachment. Giancarlo is saying some detachment. Distacco. Yeah. Overall from anger. Yeah. Po' di distacco, io ho detto, soprattutto da rabbia o stati mentali difficili. So no, or not acting, not acting right away on anger. Yeah, as they can. Good. And so, what else? Grande gioia, pace e gioia vanno insieme. Oh, peace and joy. Which go together. They go together. Happy. Good. And so, you can even think of small things, such as. When you're really mindful, then you're less likely to misplace your personal items. Ci sono alcuni cose più piccole magari. Quando si è davvero consapevoli è più facile non perdere i piccoli oggetti i nostri piccoli oggetti. Gli occhiali. Right. And so, then also, when it comes to your work and general activities, you're less likely to make mistakes. E anche per quanto riguarda l'attività lavorativa, quando si è consapevoli, è anche più facile non commettere errori. And so probably your employer will be quite pleased with you because you're mindful of what you're doing and what you're saying. E gli impiegati o le persone che lavorano con voi in generale sono anche contenti di voi perché vi comportate con consapevolezza, sapendo quello che fate. So the mindfulness practice usually helps us develop more wholesome mental states, and it also contributes to a decrease in unwholesome mental states. La consapevolezza nella vita quotidiana è anche molto utile perché di solito aiuta a diminuire gli stati mentali negativi e accresce invece quelli positivi. And so, if we ourselves are more positive, then this will have an impact on others, and overall there'll be more harmony within ourselves and with others. E grazie a questo ecco che saremo più in pace con noi stessi e con gli altri. And certainly overall we might also say there will be less conflicts. E possiamo aspettarci anche che ci siano meno conflitti. Now, one more point that has come to mind is during a retreat, wholesome mental states gradually will manifest, and then during our daily life, at times we might find ourselves to be quite restless, or we might find ourselves to be rather reactive, or to be very explosive with anger. In a case like this, it's good to remind oneself, am I really calm or not now? Am I right now? Am I really calm or not? In daily life. In daily life, right. And so, am I really equanimous right now or not? And so, am I really, do I really have thoughts of loving kindness right now or not? Così durante un ritiro noi riusciamo a costruire e a far emergere gli stati mentali positivi, ma una volta a casa ci potrebbe capitare di avere reazioni di tipo esplosivo, oppure di trovarci in situazioni di agitazione o di nervosismo o provare della rabbia. Ecco che allora in casi come questi è molto utile fermarsi un attimo e domandare a se stessi: sono in questo momento sono calmo? In questo momento sono equanime? And so also if you find yourself to be maybe somewhat anxious, overcome by anxiety, and the anxiety is maybe quite strong, then consider being mindful of this state and then turning it into the opposite. E se ci dovesse capitare di provare dell'ansia, di ritrovarci in uno stato di ansietà, ecco che un buon suggerimento potrebbe innanzitutto essere quello di essere consapevoli di questo stato di ansietà e cercare di modificarlo o di turn it in into its opposite e cercare di modificarlo nel suo opposto. And so if you find yourself to be slightly depressed for this or that certain reason, then ask yourself, does this really, do I really need to live my life like this? Or and then try to be mindful of that slightly depressive state and turn it into a more joyful state. E se ci dovesse capitare di trovarci uno stato di tristezza o di depressione, ecco, di nuovo cerchiamo di essere consapevoli di questo tipo di stato e di domandarci: è proprio necessario che io viva in questo modo? Lavoriamo, cercare di lavorare di nuovo per modificare questo stato mentale in uno stato mentale più connesso con la gioia. Now, maybe one last remark with regard to mindfulness in daily life. Mindfulness these days is finding more and more practical applications, such as in the MBSR, so mindfulness-based stress reduction, and such as bringing up one's children with mindfulness, teaching them mindfulness at an early stage, etc. Un altro suggerimento che può essere dato è quello che di considerare il fatto che la consapevolezza al giorno d'oggi comincia ad avere delle applicazioni concrete nella vita. Per esempio, ci sono questi gruppi che utilizzano la riduzione dello stress attraverso la consapevolezza, quello che viene chiamato MBSR, oppure ci sono delle tecniche per allevare e crescere i bambini secondo la consapevolezza. Or lawyers, for instance, are now making good use of mindfulness practice. E anche gli avvocati in questi periodi stanno cercano di fare buon uso della consapevolezza. Mm-hmm. Now, just a few words about the metta practice. E adesso qualche parola rispetto alla pratica di metta. Now, there are various forms of metta practice around. One is intensive jhana metta practice, which is something kind of like what you're doing now, or as intensive as what you're doing now, but applied to metta practice. Ci sono molte forme in cui la pratica di metta può essere portata avanti. Ci sono delle pratiche di metta, delle pratiche intensive di metta, che sono un po' come quello che stiamo facendo noi con la Vipassana qui adesso. And so then, there's also the metta practice done on a daily basis or as a daily practice, so just a little bit. E quindi però c'è anche un tipo di pratica di metta che è basata sulla vita quotidiana, quindi portata avanti in un modo più leggero, diciamo. And so the second type is what we're going to discuss. Ed è di questo secondo tipo, seconda modalità di fare la pratica di metta che parleremo adesso. So the commentary to the Sutta Nipata explains metta as a desire of bringing welfare and good to one's fellow men and women. Un commentario a Samyutta Nikaya parla della pratica di metta in questi termini: il desiderio di recare benessere alle persone vicine e alle persone care. And so, this mental state of metta embraces all beings. La pratica di metta abbraccia tutti gli esseri, include tutti gli esseri. Now, the classical definition of metta is that one wishes for the welfare and happiness of others. La definizione classica della pratica di metta è che la persona si augura e desidera il benessere di se stesso e degli altri. And its function is to prefer their welfare. E la sua funzione è di quella di preferire il benessere. And so if you think of anger, then anger wants to retaliate, anger wants to persecute another being. Se noi pensiamo alla rabbia, noi vediamo che la rabbia ha queste caratteristiche di voler offendere, colpire e perseguire altri esseri. And so, the function of metta is just the opposite of that. E la funzione di metta è proprio l'opposto. And so, please keep in mind that the way you deal with others will always depend on yourself, on your own mind. You, in the mind, those decisions take place, and you can decide to incline your mind towards anger, or you can also choose to incline your mind towards loving kindness. E dobbiamo tenere bene a mente che il modo in cui noi ci relazioniamo con gli altri dipende sempre da noi. C'è sempre una decisione che noi prendiamo, e noi possiamo decidere se inclinare la nostra mente verso il bene o verso il male, diciamo. And so the manifestation of loving kindness is as removal of ill will. La manifestazione della gentilezza amorevole è la rimozione della cattiveria. So, you know, when mindfulness is present, you know, from moment to moment, and or we radiate loving kindness, then the metta is going to take the place of anger or ill will. Quando la consapevolezza è presente momento dopo momento e noi irradiamo gentilezza amorevole, we radiate metta. When we radiate loving kindness, then it will remove the ill will. Ah, ecco, questo avrà l'effetto di rimuovere la cattiveria. Mm. Now, the most important. Non hai capito? Cioè, cosa avrà l'effetto di rimuovere la cattiveria? L'irradiare la gentilezza morale. Irradiare la metta. Sì. And so the nearest cause for the arising of loving kindness is seeing other beings as lovable, as having positive points. E la causa contigua della gentilezza amorevole è quella di vedere gli altri esseri come degni di affetto e di amore e come positivi. So, if we live together with another person, and then we keep seeing only the shortcomings of that person, and we keep criticizing that person, etc., how can loving kindness arise? Così, se ad esempio viviamo con una persona e continuiamo solo a vederne i difetti o gli errori, e a criticarla, come possiamo noi vivere con gentilezza amorevole? If, however, intentionally look for or we concentrate on the strong points, the wonderful qualities of this other person, then loving kindness can easily arise. Ma invece, se noi facciamo un punto fermo, importante, ci focalizziamo sulle buone qualità invece delle persone intorno a noi, ecco che in questo modo la gentilezza amorevole ha la possibilità di crescere. And usually when we have an enemy, then we think badly about this person. Di solito quando abbiamo un nemico, noi ne pensiamo male di quella persona. This, however, could be approached quite differently. And if we have an enemy, then this person may give us trouble, and we can be grateful to this person for giving us an opportunity to develop much patience. Ma potremmo anche provare a utilizzare un approccio diverso a questo problema, a questo fatto. Se abbiamo un nemico e questa persona, poiché un nemico ci dà dei problemi, ecco che potremmo cominciare a sviluppare della gratitudine verso questa persona, perché ci in qualche modo ci costringe a sviluppare la pazienza. So, to say it in a slightly extreme way, even a thief may have some positive qualities. A thief? A thief, a robber. Oh, per metterla in un modo un po' radicale, un po' estremo, anche un ladro ci potrebbe dare degli spunti positivi. He may have helped us earlier on in life in a very particular way. Potrebbe averci aiutato in qualche modo particolare durante la vita. Now, when we have a difficult relationship to another person or to a group of people, then It's important to, first of all, acknowledge this, and then as a second step, to be prepared to do something about this, to change this. Quando abbiamo delle difficoltà con una persona o con un gruppo di persone, ecco che la prima cosa che dobbiamo cercare di fare è di comprendere questa situazione e di, in seguito, come passo successivo, prepararci a cercare di fare qualche cosa che possa cambiare questa situazione. So, as we discussed this morning during the interview, if let's say our relationship to our parents is somewhat strained, then of course we can expect our parents to change, to make the necessary changes, but they may or may not do so. But what we can do is change our own attitude. This power we have, this is under our own control. Per esempio, ne abbiamo discusso stamattina durante un'intervista, se abbiamo una relazione di difficile con i nostri genitori, ecco che quello che possiamo fare non è detto che dobbiamo aspettarci che siano loro a cambiare i loro comportamenti verso di noi, ma quello che noi possiamo fare è cambiare il nostro comportamento, quindi in questo è un potere che noi abbiamo. So, when some relationship with some other person is strained, then take this as an indicator that you need to work on the relationship. And one way of doing this is on a regular basis radiating loving kindness to yourself and to that person. Così quando abbiamo una relazione che comporta delle difficoltà, so if you have a difficulty with another person, a strange relationship, then it's our responsibility to do something about it and to start radiating loving kindness. Se abbiamo appunto delle relazioni difficili o dei problemi di relazione con qualcuno, è una nostra responsabilità di fare qualche cosa per cambiarla, per cambiare la situazione. Per esempio, possiamo cominciare a irradiare metta verso noi stessi e verso queste persone. And so, if we radiate a loving kindness to another person with whom we have a difficult relationship, then possibly after just a few days, this may change already. E se noi proviamo a irradiare metta verso una persona con la quale abbiamo delle difficoltà, spesso dopo qualche giorno la situazione potrebbe cominciare a cambiare. And the other person may notice that our own behavior is changing, and thus will feel inclined also to make some adjustments. Perché l'altra persona potrebbe rendersi conto che la nostra attitudine, la nostra inclinazione rispetto a lei o alla situazione è cambiata e potrebbe provare il desiderio di fare la stessa cosa. And so let it be us to make this initial meta investment. E così consentiamoci di essere noi per primi a fare questo investimento con la meta, con la gentilezza amorevole. So people they invest their money in all sorts of businesses. So let us invest our money, our energy into radiating loving kindness. Così proprio come le persone investono i loro denari nella borsa o nei mercati, noi possiamo fare il nostro piccolo investimento in gentilezza amorevole. And so, so if we radiate loving kindness to ourselves and to others, then it will clearly lead to good relations and more stickiness, adherence among the people involved. E così. Sviluppando la pratica di metta verso noi stessi e verso gli altri, questo cambierà lentamente le relazioni e le situazioni della nostra vita, riducendo gli attriti e le conflittualità, diciamo. Venerable Sada Usilananda, a Burmese scholar, monk who passed away just a few years ago, has written in a booklet that certain people usually do not forget to put engine oil into their engines, but people do forget to put the oil of metta into their relationships. Venerabile Usilananda, un monaco di Burma che è morto pochi anni fa, aveva fatto questa osservazione, che le persone di solito non si dimenticano mai di mettere la benzina nel motore delle loro automobili, ma si dimenticano molto spesso invece di mettere l'olio della metta, della gentilezza amorevole, nelle loro relazioni. No. The way to proceed with our metta practice is as follows. Il modo, il metodo per procedere a fare la pratica di metta è quel seguente. So you sit down, you close your eyes, and then you keep mentally reciting, repeating, may I be free from enmity and danger. Così ci sediamo a occhi chiusi e cominciamo a ripetere mentalmente che io possa essere libero dal pericolo e dalla inimicizia. May I be free from mental suffering. Libero dalla sofferenza mentale. May I be free from physical suffering. Che io possa essere libero dalla sofferenza fisica. And certainly may I take care of myself happily. E che io possa aver cura di me stesse serenamente o felicemente. And that last phrase means may I take care of this body and its many different needs, like showering it and feeding it and whatnot. May I do this happily. E l'ultima frase, che io possa aver cura di me stesso felicemente, si riferisce proprio al corpo che possediamo. Che può, nelle sue attività di quotidiane, quindi lavarsi, nutrirlo, eccetera. And after having radiated loving kindness to yourself for maybe a couple of minutes, let's say 5 minutes or so, then you radiate loving kindness in the same way to your teachers, to your parents, your teachers, and so on. E così facciamo questa pratica di inviare metta verso noi stessi per qualche minuto, 5 minuti, e poi cominciamo invece a fare la stessa cosa, nello stesso modo, verso i nostri genitori, verso i nostri insegnanti, relatives, parenti, and, Dhamma friends, anche i compagni di Dhamma, and then all meditators. E poi possiamo rivolgerla a tutti i meditanti, and then, the monastics and laymen, laywomen. Poi verso i monaci, verso i laici e le laiche, the donors, i coloro che ci aiutano, quelli che ci supportano, and then the deities, poi le divinità, eccetera, eccetera. E poi eccetera. And so that's the way to this particular way is given in the metta chanting that we do every night. Proprio questo tipo di modalità è contenuto nella pratica che noi facciamo alla fine del discorso ogni sera. And another way would be to radiate loving kindness by way of location. So you start with yourself. And then you radiate loving kindness to all people here at Pian de Chileji, and to all people in Piacenza, division or region? Province. Yeah. Un'altra modalità potrebbe essere quella secondo un principio di località, e quindi cominciamo con noi stessi qui e poi lo facciamo verso le persone che ci sono in Pian di Ciliegi e poi allarghiamo sempre di più l'area a Piacenza, alla provincia di Piacenza. And then all beings in northern Italy. E poi tutte le persone nel nord Italia. And then all of Italy. Poi tutta l'Italia. And then all of Europe. Poi tutta l'Europa. And then the whole world. E poi tutto il mondo. And then, you know, the entire universe. E poi l'intero universo. Etc. So let me conclude today's Dhamma talk with a wish, namely, those of you who are going back home tomorrow, may you take your mindfulness practice with you. Don't leave it here. Don't dump it here. Johnny is not going to take it. And then also do take the metta. Practice with you, and certainly then during your daily life at home or wherever else, practice both forms of meditation, and it will be to your benefit as well as to the benefit of many others. Così vorrei concludere esprimendovi l'auspicio a coloro che lasciano il ritiro domani di non lasciare qui la consapevolezza, perché Gianni non ne farà alcun uso, e quindi non abbandonatela qui, riportatela con voi e portate con voi anche la metta, la gentilezza amorevole, e fatene buon uso. E questo è quanto. Sadhu, sadhu, sadhu.